Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori e ben ritrovati a questo nostro appuntamento mensile con la parola di Dio. Come sapete la nostra trasmissione, come ben esprime il titolo, La tua parola mi fa vivere, ha come obiettivo qualcosa di grande, di alto, quello di incontrare una parola che è vita dell'uomo, non solo un testo da studiare, da scavare. E siccome questa vita non appartiene né a me né a nessun studioso della scrittura, ma solo allo Spirito Santo che bagna tutti i versetti della Sacra Scrittura, allora è importante iniziare questa nostra conversazione invocando il dono dello Spirito, cioè chiedendo allo Spirito di Dio di aprire la nostra mente, il nostro cuore, perché l'esperienza di Paolo che stiamo meditando durante queste conversazioni possa illuminare anche la nostra vita. Come sapete, il nostro percorso sta proponendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli e in questa lettura siamo arrivati al capitolo 25. La volta scorsa abbiamo lasciato Paolo prigioniero a Cesarea e il testo si era concluso dicendo che per ben 2 anni il procuratore Felice non prende nessuna decisione nei suoi confronti e possiamo dire che passa la patata bollente di Paolo al procuratore che succede dopo di lui e questo procuratore ha come nome Festo. Quindi oggi vedremo come il nuovo procuratore affronta la questione di Paolo e come questa questione trova una soluzione, uno sbocco che si concretizzerà poi in una svolta decisiva nella sua vita. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di avere sotto mano un testo del Nuovo Testamento, meglio la Bibbia intera, in modo da poter seguire sul testo quanto andrò dicendo. Per quanto invece riguarda tutti coloro che non sono nella possibilità di farlo, si può tranquillamente seguire la nostra trasmissione con l'ascolto. L'ultimo richiamo che in genere faccio sempre all'inizio della nostra conversazione è sottolineare come la riuscita di questo nostro scambio è legato ai 2 momenti di cui si compone la nostra trasmissione. Il primo momento dove sono io che parlo a voi e il secondo momento invece dove siete voi a intervenire con le vostre riflessioni, le vostre domande, le vostre richieste di approfondimento su un aspetto o l'altro del testo che andremo trattando. Proprio nel dialogo tra di noi il Signore ci aiuta a entrare nei misteri della parola di Dio. Ricordiamo, la parola fin dall'inizio è nata nel contesto di un popolo, di una comunità e viene consegnata a un popolo e a una comunità. Ecco perché è importante questo dialogo tra di noi, perché nessuno, per quanto bravo o santo che sia, da solo può esaurire tutta la ricchezza della parola di Dio. È proprio in questo dialogo e confronto tra di noi che la parola si apre, che la parola si schiude. Bene, detto questo, possiamo continuare la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Il capitolo 25 lo divideremo in 3 parti. Nella prima parte vedremo la questione che riguarda soprattutto l'arrivo di Festo come nuovo procuratore e come lui affronta il suo arrivo nella regione. Nella seconda parte vedremo la questione che tocca più da vicino il giudizio nei confronti di Paolo, quindi un nuovo processo nei confronti dell'Apostolo. Nella terza parte invece vedremo come la questione di Paolo giunge a una soluzione con il coinvolgimento anche di un altro re, uno dei discendenti di Erode. Cominciamo con la prima parte, vale a dire i versetti dall'1 al 5 del capitolo 25 degli Atti degli Apostoli. Leggo il testo. Festo, raggiunta la provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei si presentarono a lui per accusare Paolo e lo pregavano, chiedendolo come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme. E intanto preparavano un agguato per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito di lì a poco. Quelli dunque tra voi, disse, che hanno autorità, scendano con me, e se vi è qualche colpa in quell'uomo, lo accusino. Bene, questa è la prima parte di questo capitolo. E notiamo che dopo 2 anni le ostilità nei confronti dell'apostolo Paolo non sono passate, anzi si sono aggravate ulteriormente, perché appena giunge come il nuovo procuratore, una delle prime cose che gli vengono messe sul tavolo è quella di risolvere la questione Paolo, che secondo i notabili di Gerusalemme ha un significato ben preciso: mettere a morte l'apostolo o trovare comunque una soluzione in cui quest'uomo venga fatto fuori. Va tenuto presente che quando scrive questi versetti Luca ha ben presente la situazione storica in cui Festo è diventato procuratore. Noi abbiamo le informazioni su di lui non solo da parte degli Atti degli Apostoli, ma anche di altre fonti che non sono fonti bibliche, e queste sono molto interessanti perché ci aiutano a comprendere la situazione che Paolo si è trovato ad affrontare suo malgrado. Quando praticamente Festo diventa procuratore della regione, Festo come procuratore viene nominato da Nerone negli anni che vanno tra il 56 o il 58, c'è l'incertezza sull'avvio, fino al 62, che è l'anno della sua morte. Bene, Festo si trova a dover affrontare 3 problemi abbastanza grossi. Il primo problema era quello delle tensioni che a Cesarea, che era la sede del procuratore, Cesarea Marittima, a Cesarea c'erano tra gli ebrei, le comunità ebraiche e le comunità pagane. Tra queste 2 anime della città non c'era per niente sintonia, anzi c'erano momenti di contrasto e di tensione molto forte che Felice aveva sempre cercato di soffocare con altrettanta forza. Ora Festo si ritrova con questa situazione da risolvere. Festo è un grande mediatore, però proprio per mediare deve ascoltare entrambe le parti. Quindi pensate, questo arriva a Cesarea e si trova con una persona scomoda come Paolo, che è invisa ai notabili degli ebrei, vale a dire alle autorità ebraiche. Quindi se volesse in qualche modo ingraziarsi il popolo ebraico, dovrebbe perlomeno andare incontro alle loro richieste, cioè quelle di processare in modo definitivo la situazione di Paolo. Secondo problema che Festo si trova ad affrontare è quello dei sicari. Chi erano i sicari? Erano praticamente gli estremisti del gruppo dei zeloti, degli zeloti, che mischiandosi tra la folla, soprattutto in occasione di festività, di manifestazioni, dove c'era un assembramento di popolo, con un pugnale colpivano i collaborazionisti dei romani. Ora, approfittavano di alcune situazioni per far fuori quelli che a loro davano fastidio. Ora, Festo, stando alle informazioni che noi abbiamo dalle fonti extrabibliche, fu un uomo che intervenne in modo vincente nei confronti di questi estremisti, riuscendo a ridurre al massimo i danni, cioè tra i procuratori fu quello che ottenne maggiori risultati. Ora è interessante perché i notabili degli ebrei, appena lui arriva, si presentano a lui dicendo: porta Paolo a Gerusalemme, così mentre lui viene portato a Gerusalemme noi organizziamo una manifestazione e in occasione della manifestazione facciamo fuori l'apostolo. Quindi La proposta indiretta che i notabili dei giudei fanno al procuratore è di lasciare mano libera ai sicari, proprio quelli che il procuratore vuole in qualche modo cercare di ridurre al massimo. Quindi vedete che probabilmente anche questo, ma non sicuramente solo questo, i motivi sono molti altri, però porteranno il procuratore a tutelare un pochino l'apostolo. Terzo problema che si trova ad affrontare è un problema di diplomazia tra le autorità romane e sempre le autorità giudaiche, perché praticamente Festo è procuratore della regione, ma sulla regione ha una certa giurisdizione anche uno dei discendenti di Erode, praticamente il figlio di Erode Agrippa I, che si chiama Erode Agrippa II, che quando morì il padre era troppo giovane per prendere potere su tutta la regione, che allora era nelle mani del padre, per cui fu sostituito temporaneamente dai procuratori. Ora Erode Agrippa II ha acquisito comunque un certo potere, si recava tranquillamente a Gerusalemme, anzi a Gerusalemme era salutato con tutti gli onori che si prestavano ai re che in qualche modo tutelavano il popolo. Però cos'era successo? Aveva fatto un affronto grave nei confronti delle autorità sacerdotali. Lui aveva la reggia su un'altura della città santa, su un'altura di Gerusalemme, e su quell'altura lui aveva fatto praticamente allestire la grande sala da pranzo, una grande sala da pranzo all'aperto, dove lui poteva vedere da lì tutta l'area del Tempio. Il problema è che poteva vedere da quest'altura anche i sacrifici che si vedevano al Tempio. Quindi un sacerdote della stirpe erodiana, collaborazionista dei Romani, con il suo sguardo vigilava sull'area sacra del Tempio. Questo era stato visto come un oltraggio dai sacerdoti del Tempio, che avevano fatto erigere un muro in modo da impedire al re di vedere la spianata del Tempio. Il problema è che questo muro non permetteva nemmeno ai soldati di vigilare su quello che avveniva all'interno del Tempio, sulle eventuali sommosse, ad esempio come quella che era successa quando Paolo era stato arrestato. Ecco allora che Festo aveva mandato una delegazione a Roma chiedendo il permesso di poter demolire il muro, ma anche i sacerdoti avevano mandato una delegazione chiedendo il permesso di poter mantenere il muro. Nerone, che doveva tenere in qualche modo l'equilibrio della regione, diede ascolto ai sacerdoti, dicendo però a Festo: guarda, io permetto a loro di tenere il muro, ma do a te la possibilità di cambiare il sommo sacerdote in base ai tuoi desiderata. E Festo non se lo fece dire due volte, cambiò subito il sommo sacerdote in carica con un altro che era un pochino più secondo le sue corde, e questo generò qualche malumore, anche un pochino di più di qualche malumore, nei confronti delle classi sacerdotali. Questo per dire che cosa? Per dire che Festo in qualche modo appoggiava Erode Agrippa II, il che spiega quello che viene narrato subito dopo nel capitolo 25, e nello stesso tempo però si trova a dover giostrare con le autorità sacerdotali. Quindi quello che riguarda Paolo avviene in questo contesto, che capite bene voi stessi, no? Ricostruito con le problematiche principali che Festo deve affrontare, non è un contesto molto semplice. Quindi ha dei problemi a Cesarea tra ebrei e pagani, ha il problema degli zeloti, delle punte estremiste degli zeloti, dei sicari, che vuole in qualche modo allontanare dalla regione, e poi c'è tutta una questione che riguarda il suo rapporto con le autorità del Tempio. Quando lui arriva in carica, gli viene consegnato il fascicolo che concerne Paolo. Sono già passati 2 anni e, stando alla legge romana, dopo 2 anni bisogna prendere una decisione, perché Paolo è un cittadino romano, quindi ha diritto di sapere come vanno a finire le sue cose, come va a finire il suo caso. Ci vuole un altro processo. Ecco perché veniamo a sapere che I capi dei sacerdoti, i notabili dei giudei, si presentarono a lui per accusare Paolo e lo pregavano, chiedendolo come un favore, che lo facesse venire a Gerusalemme. Quindi Festo deve prendere una decisione. Ora, quello che a noi interessa in tutto questo, che è importante tenere presente, è questo aspetto. Come mai, dopo 2 anni, Paolo non è stato ancora dimenticato dalle autorità di Gerusalemme? Cosa rende Paolo tanto pericoloso anche dopo 2 anni che lui non risiede a Gerusalemme, ma è stato spostato completamente a Cesarea ed è in carcere? Perché lo vogliono, le autorità di Gerusalemme lo vogliono morto? Ora, queste domande non sono domande banali, perché anche se rappresentano il volto di chi è contrario all'Apostolo, ci aiutano a capire ciò che è al centro della nostra fede. Cioè, se Paolo è tanto pericoloso, non lo è per motivi politici, ma perché insegna, annuncia, testimonia un qualcuno e un qualcosa di rivoluzionario per la vita di chi crede e anche per gli ebrei di Gerusalemme, cioè è un qualcuno, un qualcosa che mette in crisi il sistema dei notabili e delle autorità del Tempio. Allora, è importante per noi mettere a fuoco ciò che rende pericoloso Paolo, perché lì noi cogliamo alcuni principi fondamentali del nostro credo, della nostra fede. E allora facciamo un breve stacco musicale, in modo che chi di voi ha la possibilità di farlo rilegge questi 5 versetti, dopodiché continueremo nella lettura con i versetti da 6 a 12. Quindi chiedo alla regia di mandare un breve stacco musicale e dopodiché riprendiamo la nostra riflessione mettendo a fuoco ciò che rende Paolo tanto pericoloso. Ecco, continuiamo quindi nella nostra lettura del capitolo 25 cercando di capire gli elementi che rendono Paolo tanto pericoloso. Bene, questi elementi sono racchiusi nei versetti che ora leggo, che sono i versetti che vanno dal 6 al 12. Dopo essersi trattenuto fra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo scese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena egli giunse, lo attorniarono i giudei scesi da Gerusalemme, portando molte gravi accuse, senza però riuscire a provarle. Paolo disse a propria difesa: «Non ho commesso colpa alcuna, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo fare un favore ai giudei, si rivolge a Paolo e disse: «Vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose davanti a me?» Paolo rispose: «Mi trovo davanti al tribunale di Cesare. Qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, disse: «Ti sei appellato a Cesare. A Cesare andrai». Bene. In questo testo già c'è la, come dire, lo sbocco, il finale praticamente di questi 2 anni di prigionia, il verdetto finale se lo autopronuncia Paolo, quando Paolo si appella a Cesare. Però tra le righe noi riusciamo a capire cosa rende Paolo tanto pericoloso. Il testo al versetto 7 ci dice che appena egli giunse, i giudei lo attorniarono portando molte gravi accuse. Ovviamente si tratta di accuse false, come precedentemente era successo per Gesù, come precedentemente era successo per Stefano. Ora le stesse gravi accuse vengono scaricate nei confronti dell'Apostolo Paolo. Ma il tema, l'oggetto di queste gravi accuse, noi lo ritroviamo proprio nella difesa di Paolo. Quando Paolo dice a propria difesa, non ho commesso colpa alcuna né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ecco ciò che rende Paolo tanto pericoloso: le sue posizioni nei confronti della legge, le sue posizioni nei confronti del Tempio, le sue posizioni nei confronti di Cesare. Cerchiamo allora di capire in che senso Paolo rappresenta un pericolo su queste 3 dimensioni. Nei confronti della legge. Sappiamo che nella tradizione biblica, nella tradizione ebraica, la legge è il cuore di tutta la vita ebraica. La Torah, la cosiddetta Torah, è ciò che attorno alla quale vive l'identità ebraica, attorno dentro la quale non solo la lettura, ma l'immersione nella Torah assicura l'incontro con il volto di Dio. La Torah, tra l'altro, è paragonata a tante immagini che richiamano la vita, è paragonata all'acqua che dà fecondità all'esistenza, è paragonata al fuoco, perché venne scritta con il fuoco sul monte Sinai, no? Sulle tavole di pietra, cioè ciò che è caratterizzato davvero, ciò che caratterizza la vita. Quindi il pio ebreo con la Torah può incontrare Dio, senza la Torah non può incontrare Dio. Ora Paolo vive questa dimensione, ma per lui la Torah, cioè la parola, la legge, ha assunto un volto, e questo volto è il volto di Gesù. E il volto di Cristo ha reso la Torah, ha relativizzato la Torah. Come Paolo dirà nella lettera ai Romani, la Torah è un pedagogo che conduce a Cristo. Cioè, il pedagogo chi era? Era una sorta di tutore del ragazzino, finché il ragazzino arrivava all'età matura. Una volta che giungeva all'età matura, ovviamente le scelte le faceva lui, ma nella fase dell'immaturità, quindi dell'età precedente, i genitori lo affidavano a un maestro, un tutore, che lo accompagnava, che lo seguiva, che lo formava per arrivare alla maggiore età. Allora Paolo dice: la legge è preziosa perché ci custodisce, ci accompagna alla maturità, ma la legge non ti dà la maturità. La legge non ti mette in grado di arrivare tu stesso alla sorgente della vita. Ecco allora che questa relativizzazione della Torah, che era il fulcro dell'ebraismo, rappresenta per le autorità del Tempio un vero e proprio, una vera e propria minaccia. Secondo aspetto, contro il Tempio. Paolo dice: io non ho mai parlato contro il Tempio. Ed è vero, Paolo non parla contro, ma rilegge completamente questi elementi che costituiscono i pilastri della vita ebraica. Non parla contro il Tempio, ma rivede completamente la funzione del Tempio. Il Tempio per Paolo non è un edificio fisico. Sappiamo che il ritmo dell'anno ebraico è scandito dalle cosiddette feste di pellegrinaggio, la festa delle capanne, la festa di Pasqua, la festa delle settimane, erano le tre grandi feste di pellegrinaggio dove le persone che erano nella possibilità di farlo erano invitate a fare un pellegrinaggio nella città santa e a vivere queste festività con le ritualità che l'accompagnavano nell'area del Tempio. Paolo dice: il Tempio non è centrale, cioè il luogo della manifestazione di Dio non è il Tempio, non sono i sacrifici, gli animali che accompagnavano tutta la liturgia del Tempio, non è il sacrificio del mattino o della sera che era caratterizzato ora dall'offerta dell'incenso, ora da alcune preghiere di benedizione, non è questo che assicura la relazione con Dio. Il nuovo Tempio per Paolo è la comunità dei credenti che uniti pur nella diversità diventano il luogo in cui Cristo, Dio, si manifesta. Paolo non dice niente di nuovo rispetto a quello che Gesù stesso ha manifestato nel suo ministero, quando ha istituito la comunità dei dodici, quando ha allontanato dal Tempio tutti i commercianti, i venditori, quando ha sottolineato che il sabato è fatto per l'uomo e non viceversa, quando ha relativizzato alcuni sacrifici che venivano svolti all'interno del Tempio. Però capite bene che insegnare questo mette in seria difficoltà non solo l'ebraismo ufficiale, ma tutte le classi sacerdotali, che sono proprio quelle che si presentano, si precipitano davanti a Festo appena Festo viene nominato procuratore. Poi c'è il terzo aspetto, contro Cesare. Ora, Paolo non ha mai parlato direttamente contro l'imperatore, anzi sappiamo dalle sue lettere che ci sono alcuni passi che a volte lasciano un pochino stupiti noi con la nostra mentalità, quando invita ad essere ossequiosi nei confronti di coloro che governano e a pregare per loro, perché il Signore comunque li aiuti a fare meno danni possibili e a promuovere il bene di tutti. Però è anche vero che Paolo sottolineava che il Signore è il Kyrios, cioè il vero Signore del mondo, il vero imperatore del mondo è uno solo, è il Signore, è Gesù che è morto e risorto. Quindi la centralità della forza è in colui che si è svuotato di ciò che gli dava potere, il Cristo, e nella sua debolezza ha manifestato la potenza di Dio. Quindi, quando Paolo dice io non ho detto niente di male contro la legge, contro il Tempio e contro Cesare, manifesta indirettamente i tre capi di accusa. E dentro questi tre capi di accusa ci sono i tre elementi problematici del suo insegnamento, quindi tre aspetti che fanno parte dell'identità cristiana nostra e che portano davvero a una rivoluzione non solo nel primo secolo, ma in un certo senso anche nella mentalità di oggi, almeno in una certa mentalità di oggi, dove la legge, il Tempio, le autorità vengono rilette in un'altra chiave, nella chiave di lettura cristiana. Su questo sfondo Paolo fa poi appello a Cesare. Cosa significa fare appello a Cesare? Paolo è un cittadino romano, più volte durante il suo percorso di vita fa appello a questa sua identità. Ricordiamo quando è stato arrestato nell'area del Tempio e stava per essere messo in catene e flagellato. Paolo si volge indietro e dice: ma vi è lecito flagellare un romano? Oppure quando era stato messo in prigione senza giudizio a Filippi e lui fa presente al magistrato che lui è cittadino romano ed è stato messo in prigione senza prima essere stato, senza avergli dato la possibilità di difendersi, cose che erano molto gravi, cioè il cittadino romano aveva delle possibilità maggiori rispetto a un semplice ebreo. E Paolo è cittadino romano, quindi in caso di processo che rischia di portare alla condanna a morte, il condannato poteva fare appello all'imperatore e chiedere di difendersi e di portare dei difensori davanti all'imperatore. Quindi vedendo come la piega che stavano prendendo le cose, vedendo che Festo, non volendo scontentare troppo le autorità di Gerusalemme, propone di fare il processo a Gerusalemme, Paolo utilizza la formula ufficiale, che è la formula rituale, a cui a un cittadino romano bisognava poi concedere quello che veniva richiesto, cioè lui usa proprio la formula: io mi appello a Cesare. E la risposta del procuratore, la risposta ufficiale a questa formula: ti sei appellato a Cesare andrai. Cioè non è solo una frase, ma è la frase di rito che concede al cittadino romano il diritto di avere un regolare processo, poter portare i propri testimoni e poter difendersi davanti all'imperatore. Quindi dopo 2 anni, in questo processo in cui Festo deve mettere nero su bianco la finale dei 2 anni di prigionia, la finale, visto che stava avendo una piega che metteva a rischio la vita di Paolo, la finale se la scrive Paolo stesso, appellandosi a un suo diritto. E qui si realizza quello che era stato detto al capitolo 23, quando Paolo era stato arrestato e messo in prigione. Durante la notte Paolo aveva avuto una visione e il testo degli Atti scriveva così: la notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. La risposta di Festo, che dice: ti sei appellato a Cesare andrai, sottoscrive questo annuncio che in visione il Signore gli aveva fatto. Attenzione però, la sottoscrizione avviene 2 anni dopo. Notate, Dio non ha fretta, Dio non ha fretta. Come mi diceva qualcuno, lo Spirito Santo è il maestro delle lente maturazioni, sempre. Dio non ha mai fretta. E per cui l'annuncio prende pian piano forma. E Paolo ha davvero occasione, ora che si è appellato a Cesare, di rendere testimonianza a Roma. Ora lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo che abbiate modo di rileggere con calma questi versetti dal 6 al 12. Poi vedremo cosa precede il lungo viaggio a Roma, vale a dire leggeremo la parte restante del capitolo 25, che è una parte un po' lunga, sono praticamente 15 versetti dal 13 al 27, cercando di mettere in evidenza alcune piccole cose per tirare poi la sintesi prima di passare a voi la parola. Quindi lasciamo un breve stacco musicale, dopodiché continueremo con la nostra conversazione. Eccoci quindi, dopo che Paolo si è appellato a Cesare, quindi ha imposto in un certo senso, in base al diritto della cittadinanza romana, il trasferimento nella sede di Roma davanti all'imperatore, ascoltiamo ora come continua la narrazione, che vede coinvolto un'altra figura accanto a quella di Festo. Leggiamo il testo, la lettura, vi dicevo, copre i versetti dal 13 al 27 in modo che ci permette di fare una riflessione su tutto il capitolo 25 degli Atti. Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: c'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io senza indugi il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme ed essere giudicato là di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. E Agrippa disse a Festo: «Vorrei anche io ascoltare quell'uomo». «Domani», rispose Festo, «lo potrai ascoltare». Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnato dai comandanti e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare Paolo. Allora Festo disse: «Re Agrippa e tutti voi qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui riguardo al quale tutta la folla dei giudei si è rivolta a me in Gerusalemme, e qui per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono reso conto che egli non ha commesso alcuna cosa che meriti la morte, ma poiché si è appellato ad Augusto, ho deciso di inviarlo a lui. Sul suo conto però non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano, per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, ora, e Agrippa, per sapere, dopo questo interrogatorio, che cosa devo scrivere. Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui». Eccoci, quindi a un certo punto intervengono sulla scena queste due figure, Agrippa e Berenice. Chi sono? Allora, il re Agrippa è quello di cui vi parlavo all'inizio di questa conversazione, cioè era il re che aveva fatto costruire questa bella sala di pranzo all'aperto sull'altura del palazzo di Erode, in modo da poter vedere quello che avveniva all'interno del tempio. Teniamo presente che Agrippa II era figlio di Agrippa, il grande Agrippa I, che non era un re molto amico dei cristiani, tanto vero che Agrippa I fu quello che mise a morte il primo degli apostoli, cioè Giacomo, e che mise in prigione con l'intenzione poi di metterlo a morte Pietro. Pietro poi sappiamo che venne liberato per un intervento soprannaturale di un angelo e da allora lasciò la chiesa madre di Gerusalemme, lasciandola nelle mani di Giacomo. Quindi Erode Agrippa, il padre di Agrippa II, era una persona che era molto avversa al cristianesimo. C'è da supporre quindi che il figlio qualcosa sapesse qualcosa dei cristiani, sapesse qualcosa di chi guidava la comunità cristiana, e quindi questo può spiegare in parte anche il suo interesse nell'ascoltare Paolo. Ora lui si presenta con Berenice. Chi era Berenice? Berenice è la sorella di Agrippa, però una sorella molto chiacchierata, perché conosciamo dalle fonti extrabibliche che aveva un rapporto un po' strano con il fratello, al punto che Agrippa II non aveva così tanta autorevolezza perché era considerato un incestuoso, cioè aveva un rapporto con Berenice, sua sorella, come se questa fosse sua moglie. Tra l'altro Berenice ebbe più di 3 mariti e quindi questa era davvero una donna molto molto chiacchierata. Quindi il fatto di entrare in scena con delle ambiguità alle spalle, con una storia ambigua alle spalle, sembra complicare un pochino la storia di Paolo, anche se, come vedremo, saranno delle persone del tutto innocue. Agrippa II, sotto la penna di Luca, non smentisce la tradizione della famiglia. Tutti gli Erodi che noi conosciamo all'interno del Nuovo Testamento hanno una caratteristica. sono delle persone curiose verso il cristianesimo, curiose però con finalità poco pulite. Erode il Grande, cioè l'Erode che fa da sfondo alla nascita di Gesù, sappiamo che manifesta la sua curiosità all'arrivo dei magi, quindi si informa per sapere dove è nato il Messia, chiede ai magi di informarlo non appena loro sanno di preciso qualcosa di più, ma con un obiettivo ben preciso, quello di far fuori un possibile pericolo alla sua autorità. Il secondo Erode, che è Erode Antipa, che è quello che fa da sfondo al momento della morte di Gesù, anche lui non è tanto simpatico, non è tanto simpatico alla comunità, nel senso che è uno di quelli che rappresentano un pericolo, ma voleva vedere Gesù, tanto vero che nel Vangelo di Luca Gesù durante il processo davanti a Pilato viene mandato a questo Erode che vorrebbe vedere da lui qualche miracolo, qualche segno, e invece lo rimanda come se fosse uno straccione, un falso profeta. Poi abbiamo Erode Agrippa I, cioè il padre di Erode Agrippa II, anche lui è interessato al movimento cristiano, ma è interessato per far fuori i suoi capi, tanto vero che fa fuori Giacomo il Maggiore e poi cerca di mettere fuori scena anche Pietro. Ed eccoci al nuovo Erode Agrippa II, in questo caso il quarto menzionato di questa stirpe reale, che ha una curiosità che vedremo, ma è una curiosità che ha poco sapore. Insomma, quello che emerge da questa pagina è che Erode Agrippa da un lato, Berenice dall'altro, Festo, che è quello che ha portato avanti il processo, tutti ascoltano Paolo, ma nessuno riesce a trovare un capo di accusa. Anzi, sono fortemente nell'imbarazzo perché si trovano a dover mandare un prigioniero che è stato 2 anni in prigione senza riuscire a scrivere una riga che dica un capo di accusa, che dica la sua colpevolezza. E questo è ridicolo perché come fa un cittadino romano a stare 2 anni in prigione con Felice e con Festo ad appellarsi a Cesare senza avere un capo di accusa da presentare all'imperatore? Quindi tutte le persone sembrano non capire la pericolosità di quest'uomo. Quest'uomo non rappresenta un pericolo al potere romano, mentre rappresenta un pericolo alle autorità ebraiche. Tenete presente che il Cesare, cioè l'Augusto a cui Paolo si è appellato, è Nerone, non è un imperatore qualsiasi, è proprio Nerone, quello che avrà un atteggiamento molto duro nei confronti dei cristiani. Quello che a noi interessa dire come sintesi di tutto questo è il profilo che Luca ci dà dell'Apostolo Paolo. Prima di tutto, il primo tratto, la prima pennellata di questo profilo è sottolineare l'innocenza di Paolo davanti ai suoi detrattori. Paolo ha tante persone contrarie a lui, però è innocente e viene continuamente ripetuto. Le accuse che gli fanno sono false, le accuse non vengono provate e addirittura coloro che devono scrivere la lettera all'imperatore sono impacciati perché non sanno cosa scrivere. E Festo interpella un re per dire aiutami a scrivere qualcosa perché non so come mandare, con quale lettera accompagnare quest'uomo dall'imperatore. Quindi Paolo è innocente. Seconda pennellata che ci viene data. Paolo è un uomo custodito da Dio. E questa pennellata Luca ce la dà per andare in qualche modo a giustificare Paolo davanti a quei superficiali che dicono Paolo soffre, è sempre in prigione, quindi Dio non è con lui. Se Dio fosse con lui Paolo non soffrirebbe. Se Dio fosse con lui Paolo, le cose di Paolo andrebbero sempre dritte. Invece a quest'uomo sembra che tutto vada storto, nel senso che a quest'uomo che dovrebbe annunciare il Vangelo da una parte all'altra dell'impero allora conosciuto, è invece sempre in prigione. Come fa a annunciare il mistero se è sempre in prigione? Invece Luca dice no, è proprio il contrario, proprio il fatto che tutto vada storto, proprio il fatto che Paolo debba soffrire lo rende conforme al Cristo e manifesta in lui la potenza di Dio che si manifesta nella debolezza. Quindi seconda pennellata. Terza pennellata su Paolo: Paolo è più che mai missionario, perché proprio grazie al processo che lo circonda, anche se è un processo dove non si sa nemmeno quali sono i capi di accusa, proprio grazie a questo processo Paolo porta l'annuncio nel cuore dell'impero. Senza volerlo, Paolo ha già parlato di Cristo davanti alle autorità giudaiche, davanti a Felice, davanti a Festo, davanti a Agrippa e davanti a Berenice. Ed ora si è appellato a Cesare, sarà portato nel cuore stesso dell'impero, dove sappiamo che l'annuncio riprenderà vigore, riprenderà forza. Quindi Luca cosa fa negli Atti degli Apostoli? Aiuta il lettore a cogliere dietro gli eventi la mano di Dio. Un conto è quello che scrivono gli storici, un conto è quello che nella storia scrive Dio. Luca educa. Il lettore della sua opera a imparare la lettura alta delle cose, in termini scientifici a imparare l'ermeneutica dello spirito, a saper interpretare i fatti alla luce dello Spirito Santo. E questa è la grande provocazione che Luca ci lancia, lancia a ciascuno di noi: imparare una lettura alta del quotidiano. C'è una lettura terra terra. Io mi ammalo e quindi mi lamento perché sono ammalato, e quindi penso che Dio ce l'abbia con me. Ma cosa ho fatto di male? Perché mi capita tutto questo? Le cose vanno storte e allora io me la prendo, cosa ho fatto? Perché sempre a me? Perché le cose di qua? Perché le cose non vanno male di là? Ecco, questa è la lettura terra terra delle cose. La lettura alta è: cosa Dio vuole dirmi in questo? La lettura alta è mettere un attimo tra parentesi l'io e le sue attese e le sue pretese, per restare in ascolto di un Dio che ha una sua volontà, che vuole portare avanti il suo regno. Poi magari la responsabilità può essere anche mia, per carità, però riuscirò a leggerla con occhi diversi, perché non sono i miei occhi, ma sono gli occhi di Dio, che sono comunque sempre occhi che costruiscono la storia. Quindi Luca lancia la provocazione di una lettura alta della storia, mostrando che Paolo è innocente, è custodito da Dio e che in prigione è più che mai missionario. Ricordiamo cosa abbiamo detto più volte in queste nostre conversazioni: Paolo trascorre un terzo di tutta la sua azione missionaria in prigione, eppure è il grande apostolo delle genti, dalle prigioni, dalla prigione. È davvero il segno di una forza che si manifesta nella debolezza, di un'onnipotenza di Dio che passa dall'impotenza degli uomini. Ecco, cari ascoltatori, io avrei terminato la mia parte di conversazione. Senz'altro tanti aspetti sono rimasti nell'ombra, meriterebbero un approfondimento, ma proprio per questo c'è lo spazio delle vostre domande, dei vostri interventi. Quindi chiedo alla regia di darvi le indicazioni necessarie per poter intervenire nella trasmissione, e vi do appuntamento quindi tra qualche istante, dopo il breve stacco musicale, dopo le indicazioni della regia. Le tue meraviglie, la tua presenza riempito d'amore, le nostre vite, le nostre giornate, in te una sola anima, un solo cuore siamo noi, con te la luce risplende, splende più chiara che mai. Buonasera, con chi parlo? Laura Ottonetti da Firenze. Mi dica, signora Laura. Senta, questa è una pura curiosità la mia. Vorrei sapere se effettivamente quando Paolo viene studiato la testa a Paolo, questa testa che cade in mezzo a tre volte e si aprono delle fontane. La ringrazio signora Laura per la sua domanda. Allora, la nostra ascoltatrice ha posto una domanda legata al martirio dell'Apostolo Paolo. Il martirio dell'Apostolo Paolo non viene raccontato nei testi biblici, ma noi abbiamo una narrazione in un testo apocrifo. Cosa sono i testi apocrifi? I testi apocrifi sono dei testi che si sviluppano nei primi secoli cristiani e che si muovono tra la leggenda, la tradizione e alcuni fatti che hanno un'affinità nella storia e quindi vanno presi con insomma, con le pinze, servono a volte a nutrire un pochino l'immaginazione, a colorare alcuni aspetti, però ecco, vanno tenuti un po' tra parentesi, ciò che è sostanziale per la nostra fede è contenuto all'interno della scrittura e dei commenti sulla scrittura che la tradizione ci ha dato. Ora, in uno di questi testi, gli Atti di Paolo, che poi confluiscono in un altro testo che si chiama Atti di Pietro e Paolo, che racconta un po' la passione di entrambi gli apostoli, narra la morte dell'apostolo nella zona delle tre fontane. Secondo la tradizione, quando Paolo viene decapitato, la sua testa fa tre balzi e da questi tre balzi, tra l'altro abbastanza distanziati l'uno dall'altro, sarebbero scorgate tre diverse sorgenti. Ora, perché dico che nei testi apocrifi noi abbiamo un intreccio tra la narrazione, l'immaginazione e la storia? Perché un elemento che sembra a che vedere con la storia è il luogo del martirio di Paolo, che sembra combaciare con davvero le attestazioni delle esecuzioni in quel periodo. La tradizione dei tre balzi della testa va invece presa con il buon dell'inventario, insomma, non è che uno crede, pone la sua fede solo e esclusivamente su quello. Potrebbe essere successo questo, come potrebbe essere stato associato a Paolo la presenza di una sorgente, di una zona della sorgente d'acqua in quella regione. Non sappiamo. In altre situazioni l'acqua è davvero sorta in modo miracoloso. Noi sappiamo che ad esempio le apparizioni mariane sono spesso associate a un evento miracoloso della nascita di una sorgente d'acqua. Ora, se questo sia avvenuto anche nel momento del martirio di Paolo, non lo sappiamo. Potrebbe essere anche un linguaggio comune all'epoca. Nei martirologi, spesso i martiri, morendo dalle ferite o dai punti che vengono colpiti nel corpo, scorga ora il latte, ora l'acqua, ora la sorgente, perché indica che la morte non è l'ultima parola, ma da quella morte sgorga una fecondità e una vita di cui l'acqua è un'espressione vitale, è un'espressione tangibile. Quindi confermo quello che la signora, la nostra ascoltatrice ha detto, cioè il martirio, la tradizione collega il martirio alla decapitazione e il fatto che alla decapitazione di Paolo siano stati questi tre balzi da cui sono nate le tre fontane, proprio nel luogo dove oggi c'è l'abbazia delle tre fontane alla periferia di Roma, però ecco, la storicità di questo evento non è in tutti i dettagli del testo apocrifo, ma in alcuni elementi che poi sono stati arricchiti da quello che la tradizione, l'immaginazione, il messaggio che la tradizione voleva trasmettere è passato in questi testi. Quindi grazie signora Laura per la sua domanda. Thank you. Pronto, pronto? Con chi parlo? Con Giancarlo di Verona. Mi dica, signor Giancarlo. Due brevi domande. La prima, a quale titolo Paolo diceva sono cittadino romano? La seconda domanda, quando dice voglio appellarmi a Cesare Augusto, si riferisce semplicemente a un tribunale di Roma o alla passione dell'imperatore? Perché mi sembra difficile che l'imperatore processasse lui di persona tutti le centinaia o migliaia di persone che si appellavano a lui. Certamente, certamente. Grazie signor Giancarlo per le sue domande. Allora, due domande molto molto interessanti. La prima riguarda la cittadinanza romana di Paolo. Allora, noi sappiamo che Paolo gode di questa cittadinanza romana proprio dalle diverse attestazioni che troviamo all'interno del Nuovo Testamento e anche per come si è svolta un pochino la sua vicenda. Paolo praticamente non sarebbe approdato a Roma senza avere la possibilità di una cittadinanza romana e anche in altre situazioni non sarebbe stato liberato da quella che lui chiama la bocca del leone senza poter godere di questo diritto, cioè le cose sarebbero finite male molto molto prima se lui non avesse avuto la cittadinanza romana. Come Paolo ha ottenuto la cittadinanza romana? In uno dei passaggi Paolo, proprio quando il centurione si presenta a lui dopo aver saputo che è cittadino romano, lo stava per mettere in prigione, si precipita da lui e gli dice: ma come, tu sei cittadino romano? Io ho avuto questo onore, questo titolo a caro prezzo, tu come l'hai potuto ottenere? E Paolo dice: io lo sono per nascita. Ora, a partire da questa espressione, gli studiosi ritengono che i motivi possono essere diversi. Un motivo poteva essere il fatto che il padre poteva avere militato come soldato all'interno delle truppe dell'impero per combattere i nemici dell'impero e la truppa a cui lui apparteneva abbia ottenuto una bella vittoria che sarebbe stata premiata con la cittadinanza onoraria, che si sarebbe poi trasmessa di generazione in generazione. Un'altra possibilità è che il padre sia stato schiavo, portato come schiavo a Tarso, proveniente dalla Galilea, si dice che il padre sia originario della Galilea, il padre di Paolo, portato a Tarso, era servo di una famiglia romana e per il buon comportamento o tutti i servizi, la lealtà nei confronti del suo signore, abbia poi ottenuto per lui e per la sua famiglia la cittadinanza romana. E questo sarebbe poi passato a Paolo. Quindi diverse erano le circostanze in cui Paolo poteva aver acquisito questa cittadinanza. Non sappiamo quali di queste vie sia quella grazie alla quale Paolo sia arrivato alla cittadinanza romana. Sappiamo però che lui nasce come cittadino romano. Questo spiega anche il passaggio al nome, no? Il passaggio del nome. Finché è in un territorio ebraico, Paolo utilizza un nome ebraico, Saulo. Quando entra nel territorio pagano, Paolo utilizza un altro nome, che è più affine a quello romano, Paulos, con tra l'altro anche dei significati molto diversi sullo sfondo. Seconda domanda del signor Giancarlo, ma Paolo che si è appellato a Cesare si presentava davanti all'imperatore in persona? Ma certo che no, giustamente non tutte le persone potevano presentarsi davanti all'imperatore, ma il tribunale dove veniva giudicato era sicuramente, cioè era quello che rappresentava la decisione dell'imperatore, quindi appellarsi all'imperatore era un modo per essere giudicato direttamente dal tribunale romano e ovviamente anche lì il tribunale non era unico, c'erano diverse sedi in base anche a come ai capi di accusa, alla storia che uno portava dietro di sé, però certamente questi tribunali raffiguravano, rappresentavano l'imperatore in persona. E Paolo era conosciuto o no dall'imperatore? Ecco, è difficile che una persona come Paolo non fosse conosciuta all'imperatore, soprattutto per il subbuglio che aveva creato a Gerusalemme. Per cui, anche se le circostanze possono essere diverse, non è nemmeno da escludere che lui sia stato giudicato proprio alla presenza stessa dell'imperatore. Non è da escludere, anche se potrebbe essere di per sé, come ha sottolineato Giancarlo, poco probabile. C'è un film che io raccomando molto a voi ascoltatori e che narra gli anni dell'ultima prigionia di Paolo a Roma, che non è ancora quella verso la quale si sta dirigendo, verso la quale si sta dirigendo l'Apostolo, però aiutano un attimo a capire la situazione e quello che Paolo poteva rappresentare davanti all'imperatore. Ed è il film di Andrew Yatt, che è uscito lo scorso maggio, Paolo Apostolo di Cristo. È un film molto, a mio avviso, molto bello, molto ben riuscito, molto aderente anche al testo del Nuovo Testamento e che davvero invito a vedere, è disponibile oramai in DVD, quindi è possibile anche acquistarlo, e magari su di esso anche fare un cineforum. Invito le comunità parrocchiali anche a fare un bel cineforum, soprattutto in occasione della Quaresima, perché tocca il tema della sofferenza per Cristo, tocca il tema della persecuzione e ci dà uno scorcio stupendo di quello che poteva essere la vita di Paolo, la vita di Luca, la vita della prima comunità cristiana a Roma nel periodo oscuro che Paolo sta per affrontare, no? Dopo che si è appellato a Cesare. Quindi grazie di cuore Giancarlo, perché con la tua domanda ci hai dato anche l'occasione di dare un suggerimento per il periodo quaresimale nella visione di un film che a mio avviso merita molto per capire la situazione della comunità cristiana. Grazie. Pronto? Con chi parlo? Buonasera, sono Mario da Palermo. Mi dica, signor Mario. Ecco, io volevo fare una domanda, però con un'altra mi riallaccio alla signora Toscana, quello delle Tre Fontane. Sì. Il discorso delle Tre Fontane, che siano usciti tre zampilli di acqua, io ritengo che sia una cosa realistica. Però, diciamo, mi riservo di farle sapere qualche cosa dalla gerarchia cardinalizia Carlo Bartolomeo Piazza. Da questo libro del 1703 io ho letto che Paolo e Pietro e Marziale dicevano messa nell'oratorio di San Marziale. Non so se lei sa chi è San Marziale. No, chi sia San Marziale non so chi sia. San Marziale era il figlio adottivo di San Pietro. Ah, bene, bene. Allora, ringrazio Mario per questo suo intervento. Io vi invito solo a distinguere ciò che viene, noi abbiamo dal testo delle scritture, da ciò che viene dai testi apocrifi. Come ho detto prima, non escludo elementi di veridicità all'interno dei testi apocrifi, ma vanno presi con le pinze, vanno presi con cura, con attenzione. Ad esempio, vi faccio l'esempio che citava il nostro ascoltatore, cioè quello della celebrazione della memoria di Cristo, non direi celebrazione della messa, ma celebrazione della memoria di Cristo, di Pietro e Paolo congiunti, uniti, insieme. Ora, che Paolo e Pietro siano stati martirizzati nello stesso tempo, si siano incontrati a Roma, si siano abbracciati prima di andare al martirio. Ora, questa vicinanza dei due apostoli con il parallelismo delle due vite, che è tipico degli Atti di Pietro e di Paolo, che è un testo apocrifo, è certamente una tradizione successiva, che è maturata all'interno della comunità cristiana delle origini in un momento in cui c'era bisogno di sottolineare l'unità tra questi due apostoli, perché c'era qualcuno che creava divisione, come avveniva un pochino a Corinto, dove uno diceva sono di Pietro, l'altro diceva sono di Paolo. Ora questo nulla toglie al fatto che Paolo sia stato martirizzato alle Tre Fontane e che Pietro sia stato martirizzato in un altro luogo, nulla toglie alla veridicità dei fatti, però dobbiamo distinguere l'elemento di veridicità dall'elemento che la tradizione per degli obiettivi precisi ha poi aggiunto, cioè il modo di narrare la storia dei primi secoli non è il modo in cui narriamo la storia noi, è una narrazione che vuole fare una lettura alta delle cose, che vuole trasmettere qualcosa che riscaldi la fede dei credenti, e ovviamente questo porta ad aggiungere degli elementi che magari non fanno parte della storicità come noi la intendiamo, come oggettività dei fatti. Per cui il discorso sul figlio adottivo di Pietro, il discorso sul martirio nello stesso tempo, sono tutti elementi che dobbiamo prendere comunque con grande, grande cautela. Io non ho detto che la sorgente non è nata, dico solo che è un elemento che va preso con cautela, è un elemento che arricchisce la mia lettura del martirio di Paolo, perché mi dice che è un martirio che non finisce con la morte, ma con una grande fecondità di vita, mi consegna una sorgente a cui mi accosto con una certa devozione e con un certo rispetto, ma certamente non appoggio la mia fede su questo, cioè la mia fede l'appoggio su quello che Paolo ha vissuto, come l'ha vissuto e quello che Paolo ha annunciato e come lo ha annunciato. Quindi grazie di cuore anche al nostro ascoltatore per averci permesso di approfondire questo aspetto. E ora volgiamo al termine della nostra trasmissione di questa sera e vorrei terminare con un passaggio della seconda lettera a Timoteo, che ci fa capire come Paolo viveva questi istanti, come quello che questa sera abbiamo cercato di commentare. Siamo al capitolo 4 della seconda lettera a Timoteo, dove Paolo dice: «Sto per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione». Ecco, Paolo vive anche i momenti più difficili della sua vita consegnato nelle mani di quel Signore che lui annuncia, lui vive e lui testimonia. Possa questo realizzarsi anche per tutti noi, cari ascoltatori, che la nostra fede non sia un insieme di un insieme di riti, di gesti, di preghiere, ma sia qualcosa che coinvolge tutta la nostra vita, traducendosi in consegna piena nelle mani del Signore. A tutti voi auguro ogni benedizione nel Signore e ci risentiamo tra un mese. Grazie di cuore per l'ascolto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.